Adesso la seconda relazione di Don Gerotti credo cercherà di mettere a confronto la liturgia orientale, che forse in questo senso è stata meno pregiudicata che la liturgia occidentale, figlia appunto della nostra cultura e del nostro modo di intendere silenzio e parola. E certo ha mantenuto un carattere più contemplativo, è questo che noi ci immaginiamo, quasi disponiamo a ricevere dalla sua parola. Io lo incontro e lo vedo personalmente per la prima volta e lo ringrazio cordialissimamente della sua presenza tra noi oggi. Ma vi dirò che più e più volte abbiamo tentato di mettergli il laccio al collo, vero, seduti da quel nostro amico e partecipe, membro del nostro concilio, del nostro comitato scientifico che è Monsignor Sartori. Altre volte non ci siamo riusciti, questa volta abbiamo avuto questa fortuna. Lui adesso opera presso la Congregazione per la Chiesa e per le Chiese Orientali a Roma, e quindi senza dubbio anche da questo punto di osservazione credo che è quanto mai indicato, quanto mai opportuna la parola che Eli ci prende. Grazie molto, mio signore. Questo mio intervento sarà articolato in tre punti un po' sproporzionati l'uno rispetto all'altro. Un'introduzione generale che vuole nucleare un problema, una specie di tipicità e tematica in questo rapporto tra silenzio e parola nelle liturgie orientali. Una schematissima elencazione del silenzio liturgico nelle liturgie orientali, così come noi lo intendiamo e come anche Monsignore ha illustrato nella sua relazione. E poi l'approccio diretto ad un testo, che è un commento mistagogico alla liturgia della Messa, Armeno, è un inedito, del 1100, interpellato da questo punto di vista, cioè del rapporto tra parola e silenzio, così come viene letta da un vescovo, monaco prima, vescovo poi, almeno del secolo XIX. Cosa avrà provato quel monaco greco di nome Balaam, proveniente dalle remote coste della Calabria, nel fare il suo ingresso dentro la grande Costantinopoli intorno al 1330. L'emozione, certo, di un tuffo nelle fonti dell'ortodossia, nella seconda Roma, dove restava ancora vivo l'ideale di un imperatore Isapostolos, primo adoratore del libro sacro, solennemente intronizzato nella sala regia all'inizio di ogni importante convegno di potenti. Primo adoratore del libro sacro. Eppure quel semplice evento, la venuta di uno sconosciuto, destinato a diventare uno dei più insigni e sfortunati intellettuali di Bisanzio, avrebbe lasciato una traccia indelebile nella storia del pensiero cristiano d'Oriente. Zelante difensore dei diritti della ragione, cantore appassionato di quello snodarsi affascinante dei pensieri puri, che avrebbe costituito, attraverso la dura ascetica dell'astrazione dalle cose, l'unica possibile scala paradisi, il solo tramite per il quale consentire la discesa degli angeli dal seno di Abramo alle individuali esperienze dei cercatori di Dio, Balaam fu il difensore di un apofatismo assoluto, poiché, come egli stesso scrive, la maggior parte delle cose divine sfugge alla conoscenza umana. Non è vero, come si scrisse, che egli fu l'esponente fuori posto di una scolastica orecchiata in Occidente, portata in Oriente, sempre più in Madre. Fu un vero orientale, certo, stimolato ad operare una nuova sintesi dall'orizzonte sconvolgente di un umanesimo ai suoi albori. Balaam il Galato fu il paladino di un silenzio, il silenzio su Dio. Ogni tentativo di descriverne le fattezze, anche solo nelle sue operazioni ad extra, era da lui percepito come il frutto maldestro e grossolano di una fantasia popolare e illetterata. Non ti rappresentare la divinità in te quando preghi, e non lasciare che la tua intelligenza subisca l'impressione di alcuna forma, ma va immateriale all'immateriale e capirai. Questa espressione dai capitoli di Evagrio Pontico è una sintesi perfetta della sua sensibilità. Venato di una certa dotta sufficienza, forse anche segnato da un sottile scetticismo nominalistico, Balaam resta però l'esponente radicale di una delle componenti più irriducibili dell'anima orientale. Accanto a lui, e ben presto contro di lui, compare il monaco Gregorio Palamas. Esponente e portavoce del monachesimo atonita, convinto sostenitore dell'esicasmo, termine all'origine neutro, designante colui che persegue l'esichia e la silenziosa, armonica, quieta interiore, e poi via via più specializzato nell'individuare un metodo di preghiera psicosomatica fatta della ripetizione ritmica di formule brevi, infusione con respiro fino alla preghiera del pellegrino. Di fronte allo spregio intellettuale per la cruda opacità del corporeo, così potentemente ostentato da parlare, Palamas non cessa di proclamare la natura teofonica del corpo, reso tempio dello spirito dal mistero del divino paradosso. Dal silenzio che circonda l'inaccessibilità di Dio si stacca una parola pronunciata dall'eternità. Essa si fa carne e pone la sua tenda tra gli uomini. La realtà allora non è più soltanto schermo all'unione intellettuale con Dio, è l'ambiente, il talamo nuziale, entro cui l'unione mistica è resa possibile. Ne è più l'immobilità quintessenziale, dove la materia svapora o si deposita come scoria incandescente nel crogiolo dello spirito. Il silenzio, che pure è statale, diviene esigenza di movimento, di comunione, come nello slancio dinamico del Dio di Massimo il Confessore. E qui è Palamas che parla. Poiché si può aver parte con Dio e poiché l'essenza sovraessenziale di Dio è assolutamente non partecipabile, vi è qualcosa tra l'essenza impartecipabile e i partecipanti che permette loro di aver parte con Dio. Se sopprimi ciò che c'è tra l'impartecipabile e i partecipanti, quale vuoto? Tu ci separi da Dio, distruggendo il legame e stabilendo un grande e insuperabile abisso tra Dio da una parte e la creazione e le creature dall'altra. Dobbiamo allora, continua Palamas, cercarci un altro Dio che non possieda in sé solo il suo proprio fine, la propria energia e la propria deità, ma che sia un Dio proprio, poiché così non gli sarà più sufficiente la contemplazione di se stesso, non solo perfetto, ma che superi tutta la pienezza. Così infatti, quando morrà nella sua volontà, farà il bene, lo potrà. Non sarà solo immobile, ma si metterà in movimento. Sarà così presente per tutti con le sue manifestazioni e le sue energie creatrici e provvidenziali. In breve, conclude Palamas, bisogna che ci cerchiamo un Dio che sia partecipabile in un modo o in un altro, in modo che partecipando ciascuno di noi riceva, nel modo che gli è proprio e per analogia di partecipazione, l'essere, la vita e la deificazione. È quasi un bisogno, una supplica di salvezza, ad infrangere l'inattingibilità del Dio dei filosofi, per farne prostos anthropos, di cui parla l'inno a Catistos alla Vergine. Se rimane intatta l'ineffabilità di Dio, il silenzio su Dio, la forza dell'amore fa sprigionare dal silenzio di Dio un raggio di luce attingibile questo, quasi concreto, e nella luce del Tabor, questo è il termine tecnico, usato nella polemica, l'essenza irraggiungibile di Dio si fa esistenza comunicata, energia dinamica, altra cosa dall'essenza, ma in cui la divina doxa, la lampronis, si fanno partecipare. Nasce un nuovo silenzio, che non è più questa volta soltanto abissale incolmabilità, ma è unione, genesis, divinizzazione. Che non è più questa volta soltanto abissale incolmabilità, come già per le immagini al tempo dell'iconoclasmo, è ripreso qui, ma è poi l'interesse soteriologico dei grandi concili, è sempre la medesima tematica, fino alla comunicata idioma. È ripreso, dicevo, il moto ascensionale della parola materia, resa comunicazione del divino per la condiscendenza, sin catabasis, del verbo, come ci ricorda la scena. Io non venero la materia, ma il creatore della materia, che è diventato materia a causa mia. Nella materia ha accettato di abitare e attraverso la materia ha operato la mia salvezza. Parla sconfitto, tornerà alla sua Calabria come vescovo greco unito di Geracene e si consolerà insegnando il greco a Francesco Petrarca. Palamas e con lui l'intero movimento esicasta trionferà al punto da ottenere qualcosa che per l'ortodossia è quasi inconcepibile, un'aggiunta dogmatica ai sette concili della Trinità per sancire la normatività della sua dottrina. Ma ciò che più conta rimarrà questa un'ennesima riprova di una verità bipolare che l'Oriente cristiano non dimenticherà mai. Non si dà per il cristiano silenzio che non si faccia parola, così come non esiste parola che possa esaurire il silenzio. Il silenzio liturgico. Balaam e Palamas sono due personaggi profondamente connotati storicamente, marcati da una sensibilità tipicamente bizantina. Eppure i termini della questione che li coinvolge esprimono una sensibilità che si può dire, pur con gli occhi adattamenti, comune a tutto l'Oriente cristiano. Qui bisognerà specificare che o alla nostra conversazione sulle teologie e delle liturgie in particolare orientali si dà un taglio specifico sapendo che è un taglio riduttivo, oppure ci sfugge la complessità di questo mondo orientale in cui, applicando una categoria che è tipica invece del mondo occidentale, pensiamo esista la liturgia orientale, la teologia orientale, ma la stessa sensibilità antropologica che ha elaborato la teologia o la liturgia delle steppe della Siberia ha poco a che fare, con la sensibilità liturgica dell'indiano che nel Kerala canta, secondo un'antica tradizione sirica, la sua lode al Dio onnipotente. Perché questo intervento dunque non sia vittima di una certa genericità, ritengo opportuno delimitare il campo d'osservazione. Esamineremo anzitutto il nostro tema a partire dal contesto liturgico. L'Oriente non ha mai conosciuto il divorzio occidentale tra teologia e spiritualità, e quindi più concretamente tra didattica e dossologia. Questa fusione intima tra riflessione su Dio e comunione con Dio trova il suo punto più elevato e naturale nella liturgia, luogo di festa cui concorre il creato nelle sue multiformi articolazioni, tempo favorevole, kairos, nel quale le cose rivestono il loro abito festivo e svelano la loro natura eucaristica. La liturgia è l'ambito privilegiato della partecipazione del corpo alla glorificazione divina. Suoni, colori, profumi, ombre e luci, movimenti, tutto si mescola e fonde per introdurre il fedele al mistero, percepito come fascinosamente arcano e pure realmente presente, quasi consueto. Sapientemente intessuta di dottrina, la liturgia in Oriente non è mai però riducibile ad una lezione di catechismo. È una visita alla celeste Gerusalemme, in una spontanea intimità con gli asomatoi, nella foresta di simboli dal volto familiare, inesauribili proprio perché indefiniti e quindi grondanti di sensi sempre nuovi e personalizzati. Questo è lo spirito della liturgia in Oriente, oggi sottoposto alla sfida implacabile di una civiltà dove l'immagine è spesso non solo resa univoca, ma addirittura venduta o acquistata come veicolo di occulte persuasioni. Una liturgia orientale non è tuttavia mai silenziosa secondo la nostra accezione del termine. Le pause di silenzio sono pressoché ignote nello snodarsi continuo dei canti dosati e alternati. Non esiste alcun gusto per il silenzio nella celebrazione inteso come sospensione meditativa dell'intervento orale. Come si vedrà, è al silenzio interiore, come partecipazione al mistero, che l'orientale è invece profondamente sensibile, e adesso si prepara sia rinnovando di continuo la coscienza dell'inattingibilità di Dio mediante la parola, sia con la ripetizione incessante di brevi espressioni, secondo una modalità che spesso è ancora tutt'oggi presente in molta musica profana del Medio Oriente, espressioni capaci di interdire il flusso dei logismoi distraenti e concentranti così in Dio nel pieno silenzio della mente. E vi è ancora un silenzio caro all'Oriente, quello della logica, delle idee chiare e distinte. Esso, silenzio, si ottiene mediante un espediente lessicale cui continuamente la liturgia ricorre, l'uso delle antinomie, del paradosso, come bisogno di un linguaggio nuovo, ove i contrari, lungi dalle leadersi, si alleano per tentare di offrire una percezione meno inadeguata di quel paradosso primigenio che è l'incarnazione dell'incorporeo. Né esiste nelle chiese d'Oriente, generalmente parlato, un grande culto per il silenzio da parte degli astanti, che anche a causa del protrarsi considerevole dei riti, prediligono una certa modalità nella partecipazione, non disdegnando talora di discorrere nei remoti recessi del tempio o nelle immediate vicinanze delle porte con parenti e conoscenti incontrati per la circostanza. Parola e silenzio si intrecciano invece quali interiori atteggiamenti di partecipazione nel lento, progressivo snodarsi. E sono la parola e il silenzio di cui abbiamo di sopra parlato, il silenzio della divina inaccessibilità, mistero profondo, inattingibile, senza inizio. Queste le primissime parole con cui il popolo inaugura cantando la divina liturgia nel ritornello. Divina inaccessibilità resa istanza progressiva di comunione, di partecipazione, ma nel senso mistico del termine, non nel senso della partecipazione occidentale, mediante lo snodarsi della parola mistagogica, avvolgente, esigasticamente ripetuta e interiorizzata. Gloria, perdono, protezione sono continuamente invocati, accompagnati dai gesti del corpo che ne fanno subito un'esperienza fisica, quasi biologica. Un autore armeno, Nersès Dilambrot. La seconda delimitazione del nostro angolo visuale si riferisce alla tradizione liturgica prescelta, come dicevo sopra. Nel contesto delle articolatissime espressioni dell'Oriente cristiano, ci fermeremo su una in particolare, quella armena, considerata spesso marginale, perché sovente ignorata per la sua esistenza autonoma e apparentemente autosufficiente. La tradizione della Chiesa armena costituisce, al contrario, uno degli esempi più formidabili di ecumenismo innato, di spontanea apertura al meglio delle altrui ricchezze spirituali, siano esse sire o cappadoci, bizantine o latine, sapientemente orchestrate e rifuse, però, secondo il genio originale di un popolo intelligente e fantasioso, cui la persecuzione e il martirio hanno impresso una incancellabile nota di dolente elegia. Nell'ambito della Chiesa armena, cantore insuperato di tale apertura al meglio delle tradizioni cristiane fu Nersès Filantrón, 1152-53-1199. Genio versatile e poliedrico, fu monaco e vescovo in quella civiltà che, al tempo delle crociate, era autentico crogiolo di razze e di fede. Si occupò di commenti spirituali, di liturgia, di omiletica, di agiografia e di pressoché ogni aspetto delle scienze ecclesiastiche. Considerò l'unione tra i cristiani una necessità impellente e improcrastinabile, dovere perentorio per chi ha fatto della carità l'unica regola della vita. Appena 23enne, scrisse un ampio commento alla messa, fonte ricchissima non solo dal punto di vista teologico e spirituale, ma anche per la conoscenza dei costumi sociali, della vita quotidiana, delle usanze liturgiche delle altre nazioni cristiane. È proprio questo testo che vorrei in quest'ultima parte interpellare per cogliere come un armeno del secolo XII ha percepito il rapporto tra parola e silenzio nella liturgia. Far parlare un testo, del quale non esiste traduzione in alcuna lingua occidentale, quindi le parti che io darò e ne chiedo venia sono traduzioni mie, ci consentirà forse di dare al nostro discorso la voce incisiva dei protagonisti, il silenzio su Dio. La natura di Dio nessuna tra noi creature ha mai potuto conoscerla, né natura né il suo nome in modo assoluto. Noi tuttavia la chiamiamo con una moltitudine di nomi, secondo l'attività della volontà. La citazione testuale. Come si vede, siamo nel pieno clima che abbiamo tratteggiato all'inizio. Affermazione categorica della inconoscibilità di Dio per essenza, ma contemporaneamente esigenza di affermare la nominabilità di Lui in quanto esistente per la salvezza. Invero, continua l'autore, è di una potenza inscrutabile colui che misura il cielo con il palmo e tutta la terra tra il pollice e l'indice, che pensa le montagne con la bilancia e le pianure con i fiati, che vede le azioni non ancora compiute e separa il soffio e lo spirito col filo della spada. Come quella è pure incomprensibile la gloria di Lui, che riempie il cielo e la terra, Lui che è circondato e portato dai cherubini in modo incomprensibile. Con queste parole Nersès commenta l'inizio di una preghiera liturgica. Signore nostro Dio, la cui potenza è inscrutabile e la cui gloria è incomprensibile. Una frase che si riferisce a Dio in sé. È il procedere della stessa preghiera ad introdurre ancora una volta l'aspetto teologico che vi è immediatamente complementare, lo splendore della economia. Il testo liturgico così prosegue infatti: tu, la cui misericordia è incommensurabile e la cui compassione è infinita, cui Nersès fa eco con commozione profonda. Quale abbondanza di grazia, poiché alla grandezza della gloria corrisponde pure la grandezza della condiscendenza della misericordia. Essa non può né essere messa per iscritto né essere narrata, è soprattutto per esperienza che essa può essere spesso percepita. Al centro di questo mistero è l'incarnazione della parola, per mezzo della quale le divine energie perfondono il tessuto della storia umana, aprendola a un destino di gloria. In essa ci è dato di percepire, afferma l'autore, non la natura, che neppure gli angeli conoscono, ma l'eccesso della soavità dell'amore. E dove nel prefazio si dice, e con una natura invisibile, secondo l'incarnazione per mezzo della Vergine, si è compiaciuto di abitare tra di noi, il Santo Vescovo così commenta. All'inizio l'ha professato inscrutabile e verbo, e così pure il popolo l'ha proclamato nel simbolo della fede. In seguito riferisce la modalità della sua incarnazione per mostrare come si sia acquistato la Chiesa dei credenti. Colui che è inscrutabile ha ricevuto una natura visibile per il ministero, bellissima questa espressione, per il ministero del sangue virginale, e si è così unito intimamente con un corpo per mezzo di una unione ineffabile. E dunque, laddove la liturgia canta che per una inaudita divina ingegnosità ha mutato la terra in cielo, egli prosegue, ha divinizzato il nostro corpo. Ora, quando l'elemento terrestre è stato divinizzato tra noi, la nostra terra è divenuta cielo e noi terrestri celesti, perché dove è il re, nello stesso luogo si trova pure il re. La parola terrena, si badi, non si estingue per lasciar posto ad un silenzio odorante collocato in una dimensione totalmente alta. È la stessa terra che si fa cielo, con tutta la sua greve compattezza materiale, così come i fedeli all'inno dei cherubini sono essi stessi ammessi nella loro corporeità alla liturgia celeste. Non c'è dunque cristiformità che sia frattura o cancellazione, ma soltanto rivestimento a festa, svelamento di questa configurazione a Cristo. Eppure, anche sul lembo di mistero che si solleva sulla parola increata, si diffonde il silenzio perplesso evocato dalla follia della croce. L'incomprensibilità dell'opera divina non consiste tanto nella creazione, sostiene Nersès, poiché, ecco, tutti, insensati e saggi, vedono ciò che è grande, lo splendore del cielo, l'estensione della terra, il corso del sole, e ciò non è profondo, ma manifesto. È invece il mistero della croce ad essere veramente molto profondo e incomprensibile. Esso è divenuto uno scandalo per gli ebrei e una follia per i pagani, e solo per noi, chiamati da lui, forza e saggezza. Ecco che cosa chiama mistero che l'uomo terrestre non percepisce, perché è per lui follia. Di fronte al silenzio della ragione, muta dinanzi all'inaccessibilità dell'essenza e dalla incomprensibilità della kenosi, solo la lode è la parola capace di tendere le braccia verso il mistero. Cito: per mezzo della parola dell'anima e della voce del corpo, come per l'adattamento della lira e dell'aria, noi salmodiamo nei tempi convenienti al nome del nostro Dio Altissimo, e non della natura, poiché la tua essenza è incomprensibile per noi, tue creature. Noi osiamo soltanto con le nostre lodi tendere verso il nome della tua Signoria. Silenzio e clamore. L'accenno alla lode ci introduce alla tematica della parola propriamente liturgica. Se precedentemente parola e silenzio erano colti in riferimento alla inattingibilità del mistero, qui Nersès ne tratta come di una precisa espressione vocale inserita nel quadro della celebrazione, quella di cui noi comunemente parliamo quando diciamo il silenzio liturgico. Il sacerdote e i fedeli si trovano, qui la visione è curiosa, all'inizio dell'Eucaristia in situazione di radicale diversità. Mentre il popolo, ignaro del linguaggio di Dio, non conosce le sottili sfumature del parlare mistico, e per questo interviene con esclamazioni ad alta voce, il pontefice, così lo chiama, che può essere sia il sacerdote che il vescovo, pur nell'umana condizione di peccato, gode di ben altra predisposizione interiore, pregando a bassa voce nell'isolamento del santuario. Questa modalità espressiva dei riti orientali tipica, dove il sacerdote celebra una liturgia secondo un proprio modulo espressivo, il popolo canta la stessa cosa ma in forma innica e lirica, e il diacono fa da trait d'union tra le due cose. Il popolo, afferma l'autore, è al rango di servitori di Dio, in nulla associati alla sua autorità, né partecipi del suo consiglio come lo sarebbe un amico. I sacerdoti, a causa della loro intima familiarità con Dio, sono divenuti suoi collaboratori. Essi sono in verità dalla parte di Dio. Il popolo infatti non esita a confessare: siamo bambini nell'intelletto e non siamo in grado di supplicarti familiarmente. Parola gridata e supplica silenziosa sono dunque le diverse modalità di partecipazione all'inizio dell'unico sacrificio. I sacerdoti, infatti, qui riprende la citazione, sono gli intendenti dei misteri divini e pieni di coraggio nei suoi confronti in quanto collaboratori e partecipi della sua autorità. Ecco perché non lo supplicano al pari dei servi con grida, ma segretamente entrano in contatto con il Signore, faccia a faccia e con coraggio, giustamente giudicando che ciò che chiedono si compie per la gloria e secondo il beneplacito di Dio. Poiché il non prestare orecchio ci obbliga a gridare, e Dio non presta orecchio al popolo che a causa dell'infantilismo verso Cristo ha posto il peccato come ostacolo tra se stesso e Dio. Ecco perché gridano, come obbligando ad esaudire le richieste. Quanto a colui che è sacerdote, familiarmente si accosta a lui come confidente di Dio e intendente del popolo, per pregare Dio al modo di Mosè con un clamore silenzioso, Amrunch Kochmam in armeno. Egli grida verso di lui, sa così pacificare la collera del Signore, farlo accondiscendere alle suppliche dell'amore. C'è dunque un tacere che parla e un parlare che tace. Nersès insiste sul clamore silenzioso del sacerdote, espressione del suo progresso nella conoscenza di Dio. Altra citazione. È lui stesso, Dio cioè, che ci ha insegnato a pregare così, in silenzio. Ciò che vogliamo, dice nella preghiera, non sappiamo come bisogna chiederlo, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti silenziosi. Osserva che è silenzioso, cioè con una parola senza suono. Ampar par paniv, che egli conosce la preghiera sacerdotale. Questo è interessante perché citando il testo fa capire che l'interpretazione di questa parola anciareli nella traduzione della Bibbia nel versetto di San Paolo veniva percepita non nel senso di ineffabile, cioè di impronunciabile, ma nel senso di fatto non pronunciato, esattamente come alaletos significa in greco nelle due accezioni. È questa consuetudine all'intimità con Dio che nel silenzio induce il sacerdote a supplicarlo tra lacrime e sospiri perché gli conceda il dono dello Spirito Santo. Ciò ha inizio con la richiesta allo Spirito di renderlo capace di una parola silenziosa. E cito, finché non sarò da te fortificato, tengo il capo chino, privo dell'ardire di parlare con Dio. Ma quando tu, con occhio riconciliato, avrai volto il tuo sguardo all'umiliazione della mia persona e dalla supplica delle mie parole, verrai come di consueto e darai forza. Allora, per tua opera e per tuo mezzo, mi sarà consentito di alzare il capo e di levare le braccia verso Dio in preghiera. Ecco perché continua. Prostrato Bocconi rivolge questa supplica con voce silenziosa dall'inizio alla fine, perché è necessario alzare la voce quando la parola sia rivolta al popolo, affinché per la mediazione della voce la venga a conoscere. Ora, però, questa preghiera è rivolta a Dio, il quale vede nel segreto, e allo Spirito che scruta il cuore. Per questo, per ordine del Signore, nella camera del corpo raccoglie i pensieri dell'intelletto e chiude su di essi la porta delle labbra. Per ordine del così resta in preghiera verso il corpo in segreto. E questi, che vede ogni cosa, scruta divinamente il nostro segreto e soddisfa apertamente le nostre richieste. Ha quindi inizio, nella celebrazione liturgica, la grande e stupenda preghiera di San Gregorio di Narek allo Spirito Santo. È qui che la riflessione si fa descrizione del travaglio mistico del sacerdote nel sovrabbondare di un sentimento che è ad un tempo privazione e possesso, struggimento e nostalgia, spasimo ed esultanza. E qui cito, citazione un po' lunga. È impossibile e impraticabile che qualcuno spieghi le parole di questa preghiera. E sa come propria compagna e sale di soavità la brama d'amore dell'anima che arde in colui che parla e al quale appare dolce per sempre. Ma come siamo in grado di spiegare o insegnare il sospiro gonfio di lacrime di ogni anima, a meno che non lo si conosca per esperienza, essendosi trovati in quella situazione? Avendolo gustato, dice addio a tutte le illusioni del mondo, costretto a ciò nel suo cuore, e solo del sospiro egli sempre nutre la sua anima. Il sospirare è ciò che accende la fiamma dell'amore di Dio, e le lacrime sono ciò che rende puro l'occhio dello spirito. Le lacrime e i sospiri del corpo fanno allontanare l'amore e crescere le passioni intristenti, ma qui si tratta del contrario. Quanto più fissa il volto di colui che è desiderabile, tanto più sospira nella fiamma dell'amore. Quanto più gli si avvicina, copiosi torrenti di lacrime effonde, e sempre piange i giorni in cui è stata digiuna di lui e prega di possederlo in futuro. Terminologia mistica. Questa è la gioia nella quale mai domina il pentimento, è la tristezza che fa sgorgare un'esultanza duratura. Ridurlo in parole e raccontarlo è affronto alla grazia, e conoscerlo per insegnamento è frustrazione per l'uditore. Ma se anche ascolti il sospirare gonfio di lacrime di ogni anima, non pensare mai di conoscerlo o di apprenderlo da altri, finché la cognizione non scaturisca da te. E quando l'avrai appresa, allora ti convincerai nella tua anima di non conoscerla. È così che sin dall'inizio, continua la descrizione, il nostro beato si rivolge allo spirito, e mediante questi desideri e non mediante le sole parole, ritiene di attirare sulla sua persona lo sguardo dello spirito. Fine della citazione. Il silenzio di una conversazione interiore, il puro dato celebrativo di una preghiera sussurrata a bassa voce, diventa dunque occasione per cantare un altro silenzio, quello dell'estasi, cui è chiamata l'anima nell'incontro sponsale col suo Dio. Ancora di lacrime e sospiri, ancora di parole inadeguate ad esaurire la complessità e la ricchezza del mistero, Nerses parla in altra parte della sua opera, introducendo una metafora di vigoroso effetto descrittivo. Come molto spesso, specialmente qui, noi confessiamo la nostra sconfitta nel non poter spiegare le preghiere divine e adorate. In effetti, farlo è bisogno di desideri, e di un desiderio appassionato dell'anima, legati in certo qual modo allo stesso gioco dello spirito, della bocca con la parola sensibile, rivolta al Dio invisibile, che è incapace in realtà di consegnare per iscritto. E se ci sforziamo, abbiamo bisogno di molte parole, ma senza di Lui, scrutare Lui è imprudenza e disprezzo per il mistero. Per esempio, se una donna ha davanti a sé un figlio morto ed una tenerezza straziante la tormenta, essa dà libero sfogo alle sue parole per rinfrescare la febbre bruciante del cuore con lacrime e sospiri. Ma coloro che non si uniscono alle sofferenze del cuore prendono le parole che aumentano le lacrime come materia di scherno e di derisione. È un simile ardore d'amore e passione di tenerezza e desiderio del cuore che si dovrebbe vedere esalare dalle parole terribili di questa preghiera. Se la ricerca delle spiegazioni si verifica senza di questo, sarà attribuita a dei pazzi come oggetto di disprezzo e di delusione. Fine della citazione. Una mistagogia verso la parola. È dunque destino ineluttabile che una drammatica disparità di condizione spirituale separi fedeli, imperfetti e ancora balbettanti dai progressi spirituali. La comunione nel rito consiste unicamente nella partecipazione al medesimo sacrificio secondo traiettorie tuttavia nettamente parallele e tutt'al più con la comune coscienza del proprio peccato? È proprio qui, nel rispondere a queste domande, che si inserisce con vigore la novità del disegno interpretativo di Nerses di Lambron. Se all'inizio della celebrazione il grido del popolo, preso nella sua carnalità, e qui è bellissima la descrizione dell'impendice, uno viene dal mercato, uno viene dall'esercito, un altro, un principe, viene dall'aver impartito una principesca sgridata. Tutti arrivano a questa celebrazione con pensieri profani. Se all'inizio della celebrazione il grido del popolo, preso nella sua carnalità dal desiderio di vedere esauditi i propri desideri, si giustappone al silenzio dell'intimo conversare del sacerdote, scopo ed effetto della celebrazione eucaristica è la progressiva emancipazione dei fedeli dalla loro originaria estraneità fino alla piena partecipazione allo spirito realizzata nel banchetto eucaristico. Ad operare tale lenta manuduzio verso la maturità contribuiscono i diversi ruoli celebrativi, da quello del sacerdote detto offerente, rammentatore al padre del sacrificio salvifico del suo figlio mediante l'offerta presentata dal popolo, a quello del diacono, pedagogo o mistagogo, che più direttamente si incarica di indurre al popolo ad una continua sintonia col mistero celebrato. Ma soprattutto, sullo sfondo di questo quadro, campeggia l'opera della Trinità, invocata mediante la potenza del memoriale perché faccia scendere sulla comunità dei fedeli il dono dello Spirito. Questo discendere, in armeno Ichanel e più frequentemente con il coativo Ichuzanel, far discendere, è verbo incredibilmente frequente nell'opera. Si tratta di uno schema interpretativo, a mio avviso, fortemente modellato sulle gerarchie pseudo-areopagitiche, sia pure con talune originali modifiche. La grazia discende dal Padre nel Figlio attraverso lo Spirito, donato al sacerdote che la comunica al diacono e quindi ai fedeli. Già si è visto il punto di partenza della celebrazione. Progressivamente, attraverso lo snodarsi dei vari momenti celebrativi, il popolo viene ammesso alla presenza di Dio. Sentiamo il testo. Inizialmente, infatti, secondo Nerses, esso, il popolo, non è in grado di rivolgersi al Padre. Il diacono, dice, si è sollecitamente affrettato ed ha rivolto al popolo molteplici avvertimenti, con amore pietoso, finché non lo ha elevato, secondo la sua capacità, con il sacerdote, non davanti a Dio Padre, perché non sarebbero stati in grado di contemplare la sua luce, ma presso Cristo, sentite la motivazione, il loro sommo sacerdote, il quale per l'incarnazione è partecipe della loro debolezza. Quanto al popolo, ciò avviene per la mediazione dei sacerdoti di Cristo. Essendo lontani dal Padre, non sono in grado di rivolgersi. Con un gioco sapiente di interazione tra vari elementi verbali e gestuali e per la sapienza dei mistagoghi, il popolo acquista progressivamente la parola, per cui dal silenzio clamore della profanità può passare alla parola silenzio dell'intimità con Dio. Lo stesso Nerses, in una pagina della sua opera, sintetizza i vari momenti di tale processo. Siamo al Padre nostro, punto culminante di tale dinamica ascendente della parola. Il susseguirsi dei riti educa il popolo alla scoperta del linguaggio di Dio. Il sacerdote, intanto, offrendo al Padre per mezzo di Cristo il memoriale della sua passione, rammenta al Padre stesso l'evento culminante della salvezza. Questi allora effonde lo Spirito che per la mediazione di Cristo e del sacerdote si impadronisce del popolo, abilitandolo a proferire la parola che racchiude in sé il culmine dell'intimità con l'inconoscibile, il Padre nostro. Ecco le parole di Nerses. Si deve sapere che a questo punto il mistero del sacrificio è giunto a compimento con le varie suppliche dei sacerdoti. Fin tanto che esso non era stato compiuto, il diacono non aveva affatto l'audacia di avvertire il popolo. Per questo tacendo si è fermato. E questi, i sacerdoti, hanno presentato misticamente Cristo al Padre, hanno ricevuto da lui lo Spirito, hanno chiesto una molteplice misericordia. Ma quando sono giunti al termine, avendo condotto a pienezza il mistero, il diacono li avverte con l'invito al popolo: l'offerta della vostra salvezza che avete presentata al sacerdote è stata posta davanti a Dio ed egli l'ha accolta con volontà riconciliata e dolce. Ora state pronti, perché in cambio del vostro sacrificio godrete delle grazie dello Spirito che i sacerdoti hanno ricevuto da Dio. Ora state pronti. In tal modo da loro l'avviso di prepararsi alla grazia futura che sta per discendere in mezzo a loro. Questo popolo, cioè, non ha ancora l'ardire di parlare con Dio Padre. Esso non ha inoltre appreso della discesa dello Spirito sul sacrificio, perché tutto è stato compiuto di nascosto e misteriosamente nel luogo interno del santuario tra i sacerdoti. Il popolo era interlocutore soltanto di Cristo, cantando il canto dei serafini ed ogni ringraziamento come manifestato più sopra. Ormai si apprestano a ricevere lo spirito col corpo del Signore. È necessario che, come i sacerdoti hanno prima parlato col Padre e poi hanno ricevuto lo spirito per la mediazione di Cristo, così accada anche a costoro. Di avere, cioè, prima l'audacia di rivolgere la loro preghiera a Dio Padre e poi di ricevere da Lui il dono della grazia. Siamo giunti alla piena sintonia spirituale. Il colloquio individuale del sacerdote con Dio, nell'isolamento di una comunione esclusiva, si è fatto avvenimento di popolo, mediante l'opera mistagogica della Chiesa. Il silenzio della comunicazione si confronta ora non più con il clamore della estraneità indifferenziata, ma con la parola divenuta essa stessa comunicazione. Stiamo per introdurci alla solenne elevazione delle specie eucaristiche. Così dice l'autore. Il sacerdote non si contiene più, ma avendo accumulato nella camera del suo cuore la benedizione della riconoscenza, egli sparge la preghiera mistica davanti alla moltitudine. Se coloro che hanno ricevuto le preghiere, dice, sono stati fatti degni di vedere, perché io d'ora in poi occulterò loro le preghiere nascondendole? Fino ad ora parlavo misteriosamente, perché io solo vedevo Dio. Ma se la visione nascosta ha sfolgorato in pieno pubblico, con essa siano manifestati pure i desideri delle mie suppliche. Se a me solo era data la conoscenza della grazia, bisognava che io solo rendessi grazie, ma se con me anche tutto il popolo ha conosciuto la medesima cosa, che esso sia uguale anche nella testimonianza della glorificazione. Ecco perché dice ad alta voce, eccetera. Ecco raggiunta dunque la coralità della parola. L'opera è praticamente compiuta. La separazione è divenuta interlocuzione, dialogo, reciproca comprensibilità, fondata sulla partecipazione comune al mistero. Non resta che sancire l'acme del clima con un gesto, punto d'arrivo anche di un'analoga dinamica, la partecipazione al banchetto eucaristico. Conclusioni dunque, che chiamo una parola sospesa tra due silenzi. Il silenzio, abbiamo visto, non è sempre assenza di comunicazione. Né la parola, per il fatto stesso di essere proferita, si pone automaticamente come garanzia di comunicazione. Vi è un silenzio che è carico di suoni, è un messaggio violento, incondito, quasi volgare. È il silenzio di una parola che non colma l'abisso della separazione e mentre all'apparenza stabilisce un contatto, finisce di fatto col rivelare la propria impotenza. È la parola degli rudes, coniugata in un linguaggio profano, più inadeguata però che offensiva. È la lingua sbagliata, il codice che altera il valore semantico perché non si adatta al contesto. La liturgia si fa allora paziente iniziazione ad un linguaggio nuovo, in cui la parola consueta, quella della tribù, si distenda, si allarghi fino ad ospitare contenuti inauditi. E come per chi si sforza di comunicare in una lingua altra dalla propria, è necessario ripetere in qualche modo la situazione vitale, il contesto totale, la cultura, insomma, dell'ambiente di questa nuova lingua, perché in esso la parola si faccia comunicazione. Parimenti il rito, nel procedere sapientemente dosato dalla gnosi degli iniziati, potentemente orchestrato nell'acquisizione tridimensionale di accezioni nuove e stratificate, conduce il fedele ad acquisire la parola, affrancata dal clamore cogente del bisogno e finalmente slanciata nel cosmo della libertà. È l'autentica paresia che con stupendo effetto si inaugura in Nerses con l'esclamazione del nome apparentemente più consueto e quasi infantile, quello di Padre. Nel levare gli occhi in alto, nel pronunciare la preghiera domenicale, l'infantilismo finalmente si dissolve e la maturità dello spirito si spalanca. E ciò si compie non soltanto per una raffinata alchimia dal basso, ma per un dono dall'alto, così apparentemente discontinuo nella sua sovrana perfezione rispetto all'iniziale umiliazione del locutore alla sua inibizione. E proprio per questa disparità, parola di paradosso, divina signorile accettazione del limite fino a farsi limite e obbrobrio nel legno della croce. È quella che l'Acathistos chiama Theou pros thnitous eftochia, sorridente compiacimento dall'alto, suscitatore di quell'altrettanto stupefacente esperienza che l'Acathistos definisce Thniton prosteon parrisia. Dei mortali verso Dio, parrisia dunque, ancora una volta, diritto dei liberi alla parola, identificate entrambe, Eudochia e parrisia, sintetizzate anzi nel grembo di una Vergine Madre. E a questo medesimo istante, nel Padre nostro della libertà, finalmente si innesta nel dialogo tra Dio e il popolo anche il silenzioso comunicare del pontefice, assiduo frequentatore della divina intimità. Quel silenzio, fiorito di lacrime e sospiri, struggente e stupendamente evocativo, conquistato da una inaccessibilità che si apre mediante l'esperienza disponibile della meraviglia, quel silenzio era fatto di una comunicazione profonda, oltre la parola, anzi nella ecstasis della parola, congiunta intimamente, ma mai essenzialmente, con il verbo, espressione della ecstasis di Dio. Ma mai essenzialmente. Nell'Abba liturgico, il silenzio dell'impotenza e il silenzio della sovrabbondanza si incontrano e fanno sbocciare la parola vera, il senso. È così che la ricerca di colui che è al di sopra di ogni conoscenza si fa epifania della parola, oramai ad un tempo pronunciabile e rivelativa. E rinasce così l'esperienza di una parola sospesa tra due silenzi. Si potrà dire che Nersès di Lambron ama volare ad alta quota, che per lui il testo liturgico diviene pretesto per le sue spericolate acrobazie di giovane mistico, che l'originaria semantica dei gesti e delle parole del rito pare dissolversi nell'aura rarefatta di una spiritualità ormai allegorica. E c'è probabilmente del vero in tutto questo. Eppure anche questa non esauribilità, questo pluralismo multiforme, non escludente o assoluto, fa parte dell'avventura del silenzio orientale. Infinite altre letture sono infatti possibili. Se potessimo interpellare Nersès di Lambron a questo riguardo, chissà se non ci risponderebbe che l'univocità è forse l'unica parola che mai riesce ad attingere al silenzio di Dio. E l'Oriente cristiano approverebbe unanime questo giudizio. Hai visto con i miei occhi con quale godimento tutti hanno appreso, però queste voci di un mondo ricchissimo che ci sono state presentate con tale sensibilità e con tale sensibilità. E stavo anche pensando, quindi il mio ringraziamento non ha bisogno di parole stavolta, davvero, e stavo anche pensando veramente a tutto questo mondo della liturgia, che preti per un verso e laici per un altro tendono troppo a concepire come un meccanismo, e mi sono reso conto adesso che anche il programma silenzio può far parte di un meccanismo, è vero, che non automaticamente, noi siamo pieni di automi in questo mondo e cerchiamo continuamente di ragionare sulla base di macchine automatiche, distributori automatici che invece nel caso nostro assolutamente non vogliono funzionare. Non si tratta di automatismi neanche nell'uso esterno del silenzio, ma si tratta proprio di un'impresa che cerca di guarire pazientemente quel nostro vuoto del quale abbiamo tanto orrore e che non sappiamo come rimediare. Mi pare che queste voci ci hanno aiutato molto nel sapere almeno da che parte trovare la strada, e il tutto ritorna, anche se non vogliamo, veramente sulla tematica più generale di questo convegno, però, sul silenzio e la parola nella sua. Credo che la liturgia, capita un po' più a fondo, ci dovrebbe aiutare a fare qualche passo, purché usciamo fuori dal puro discorso di meccanismo e andiamo verso. Volevo tirare una conseguenza a favore della liturgia latina, quando nell'introdursi al Padre Nostro usa quella stranissima parola per noi, audemus, dice, osiamo dire, la paresia di cui si è detto adesso, eh? La paresia sperimentata al vivo, audemo, osiamo, ma chi di noi ci pensa? E così le parole diventano meccanismo, oppure di quello che San Bernardo tanto volentieri riprendeva, il gemito della colomba. Ma adesso facciamo la pausa, dobbiamo indulgere almeno 5 minuti di più, penso, vero? Alle 11.35, se il professor Baldini... A 11.40 risuoniamo il campanello, grazie.